Da questo punto di vista, Ministro, una mail di Marco che scrive da Lecco, dunque Lombardia, dice ha votato Lega e vuole chiedere a lei, a grandi linee, se può spiegare che vantaggi concreti può portare il federalismo fiscale. Marco è un operaio, ha due bambini. Guardi, le faccio un esempio molto concreto. Abbiamo parlato dell'80% di IVA, del 15% di imposte dirette. La provincia di Varese, da cui io provengo, per questo faccio un esempio, riceve dallo Stato ogni anno lo 0,6%, paga 15 miliardi, ripeto, 15 miliardi di tasse, tra dirette e indirette, e riceve 100 milioni di euro, lo 0,6%. Noi parliamo di tenere l'80% delle imposte indirette e il 15% delle imposte dirette. Ci accontenteremo anche della metà, guardi. Potremmo realizzare in 5 anni la pedemontana, tutte le infrastrutture, diminuire le imposte per gli imprenditori, introdurre il quoziente familiare, per esempio, mettere in competizione virtuosa i comuni per attirare gli investimenti, come succede in Svizzera. Se tu vieni e apri una fabbrica nel mio comune, io per 2 anni, 3 anni non ti faccio pagare le imposte, per esempio, così come avviene in Svizzera. Metteremo in atto una competizione virtuosa a tutto vantaggio dei cittadini, lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi.